A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Stiamo partendo per un weekend dentro al quale c'è di tutto. Si comincia domani mattina su due ruote, tra moto mondiale e soprattutto il mondiale professionisti su strada di ciclismo dall'Australia. Ed è un mondiale, tra poco ne parleremo subito. È un mondiale in cui ci affidiamo a Pozzato, ma in cui ci viene il magone, ci verrà fatalmente il magone domani mattina, avvicinandoci a questa corsa. Un weekend nel quale c'è di tutto, si comincia su due ruote e poi c'è una giornata che si chiuderà ovviamente con il big match di San Siro, speriamo nella maniera più tranquilla possibile, anche se tutto il peggio è stato fatto e detto, soprattutto detto in questa settimana. Avremo i Knicks a Milano con Danilo Gallinari, avremo il mondiale di pallavolo, insomma la Ryder's Cup. Oggi è stato chiesto anche a Del Neri, ultima domanda di conferenza stampa: Del Neri, ma lei guarda la Ryder's Cup? Risposta un po' basita: no, si è alzato, se n'è andato via, mi interessa di più la Juventus, ha detto Del Neri, legittimamente secondo me. Però mondiale di ciclismo, ne parliamo con il botto, del mondiale di ciclismo e anche di Inter-Juventus, a cominciare da un campionissimo che quella maglia ridata l'ha vestita. Giuseppe Saronni, ciao, buongiorno e grazie. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Anche a te verrà il nodo allo stomaco domani mattina guardando il mondiale, vero? Beh sì, è un mondiale, il primo mondiale senza Franco Ballerini, è un compagno di squadra, un amico, una persona con cui ho lavorato e collaborato molto, quindi è il primo pensiero è questo, non è la corsa verrà dopo. La corsa verrà dopo, e per i corridori come verrà questa corsa? Perché sappiamo bene Bettini, che cosa ha rappresentato Ballerini per Bettini, sappiamo bene qual è lo spirito dentro questa squadra. Come la vivrà l'Italia questa corsa, Giuseppe? Ma possiamo partire col dire che non abbiamo un grande leader, questo lo dobbiamo dire, però è anche vero che tutte le corse hanno una loro storia e si perdono e si vincono sull'arrivo. Io credo che sia un buon gruppo, ci sono dei giovani che potrebbero fare il futuro del ciclismo, della nazionale nei prossimi anni. Pozzato, Visconti ed altri sono corridori che comunque possono far bene. Ovviamente non bisogna sbagliare niente, non abbiamo la possibilità di bruciare o di buttare la minima energia, perché questo ci potrebbe togliere un buon risultato. Ma Pippo Pozzato è maturo per un mondiale, corridore di grande talento, un po' ondivago però, secondo qualcuno un po' farfallone, è maturo per una corsa come il mondiale? E il corridore sarebbe anche maturo se guardiamo la carta d'identità. Però diciamo che fino ad oggi è un corridore che ha promesso tanto, però per il momento non ha ancora raccolto tantissimo. Sì. Speriamo che domani sia la sua giornata, però ecco, ripeto, corridori di un certo livello oggi li dobbiamo ricostruire, li dobbiamo creare. Non c'è dubbio, dobbiamo ricostruire e dobbiamo lavorare per ricostruire la credibilità anche del ciclismo. Come saprai bene, come sanno tutti gli ascoltatori, è stata la settimana delle bistecche di Contador. Sì, beh, certo, il ciclismo è purtroppo sempre un po' nella bufera, nell'occhio del ciclone. È pur vero, se posso dire un qualcosa in difesa, che forse è uno dei pochi sport che fa tanto nei controlli, certo. Sono talmente rigorosi e talmente sofisticati che nessuno può scappare a questi controlli. Probabilmente in altri sport questi controlli non si fanno e quindi qualcuno scappa un po' di più, ma noi guardiamo a casa nostra perché è giusto, e dobbiamo per forza di cose risolvere i nostri problemi e ricreare un'immagine, una credibilità a questo sport. Sicuro, anche perché a me dà un fastidio pazzesco, ma parlo a livello personale e per quanto mi sta accadendo ora, leggere messaggi tipo quando sento parlare di ciclismo cambio frequenza, questo mi dà molto fastidio da persona che ama il ciclismo, non quanto Giuseppe Saronni naturalmente, ma da persona che ama il ciclismo mi dà un fastidio questi messaggi SMS. 349-238-6666, se volete anche telefonate come sempre 800-24-0024, il numero verde. A proposito di qualche veleno di troppo Inter-Juventus, da un grande tifoso interista come te, questa partita non trovi che si sia parlato anche troppo in questa settimana? Ma come sempre succede quando si parla di partite, dei confronti con grandi squadre, ma è chiaro, è normale che ci sia qualcosa anche un po' di troppo. però insomma serve anche questo per creare, come dire, l'importanza, l'evento no, di questo tipo di partite. Sì. È ovvio che io come tifoso appassionato interista in questo momento mi sento molto tranquillo e molto sicuro su un possibile risultato della mia squadra. Per domani dici? Sì, per domani, sì. Anche a lungo termine, ma anche a breve. Sì, ma sai cosa? A me no, ma mi è venuto anche questo parallelo, insomma, col ciclismo. Questo parlare con te di ciclismo e di calcio, anche perché questa partita mi sembra per la Juventus un po' la prima tappa di montagna nel Giro d'Italia. Quante volte avrai detto anche tu? Sai, il luogo comune è la prima montagna del Giro, alla fine della prima settimana, il luogo comune qual è? Capiremo su questa montagna chi il Giro non lo può vincere, sì, no? Sì, è vero. È vero o no? Questa partita è così per la Juventus, secondo me. Certo, non è una bella partenza, non è un bel dire, non è una bella prospettiva avere già un banco di prova nelle prime giornate di campionato. Questo è vero. Senti, un'ultima cosa, ti manca Balotelli? Che oggi ne ha fatto un altro, non so se hai avuto modo di leggere, è andato senza permesso insieme al fratello naturale in un carcere femminile di Brescia, cioè ha visto il portone aperto, si è infilato dentro con la Mercedes e gli ha detto ma lei dove sta andando? E lui caduto dalle nuvole, ma pensavo si potesse, no? Ma tante volte sai cosa mi viene da pensare? Tante volte, ma non lo so, ma questi ragazzi li fanno apposta queste cose qui per farsi notare o così, o succedono casualmente, veramente. Sì. Io abituato con i ragazzi, con gli atleti che fanno ciclismo, io credo che ci sia una maturità maggiore. Ovviamente non è così per tutti i calciatori, anzi, per l'amor di Dio, però qualcuno ha bisogno di imparare un po' di educazione e un po' di modo di vivere, questo. Ci è o ci fa, tu dici? Bah, probabilmente ci è. Grazie Giuseppe, grazie mille Beppe. Saluto a tutti. Un abbraccio, alla prossima. Grazie a Beppe Saroni, abbiamo inquadrato così un po' di temi, tra poco li svilupperemo anche con voi. 800 24 00 24 è il numero verde. No, dicevo prima, ma poi ribadirò leggendo anche quanto ha scritto Franco Arturi oggi sulla Gazzetta. Stare zitti no? Il suo commento a pagina 6, ovviamente... parlando delle troppe chiacchiere, troppe voci, troppe lettere, troppe illazioni, anche troppe fesserie che sono state dette dagli addetti ai lavori, dai diretti interessati prima di questa partita. Ma ce n'era bisogno? Ma stare zitti no? Secondo me stare zitti sì. Non so voi, 800 24 00 24. Traffico, poi di nuovo qui. Dunque, ve lo voglio leggere, ma stare zitti no. Scrive Franco Arturi, lo leggo sottoscrivendo oltre che sottolineando. Abbiamo appena tentato di tapparci le orecchie alle ultime parole dei dirigenti top dell'Inter sull'infinita diatriba post-Calciopoli. Quando ci imbattiamo nello squillo di risposta del presidente juventino Andrea Agnelli, fra tante parole di saggezza rivolte ai suoi tifosi spuntano quelle, virgolette, vittorie tutte meritate sul campo, chiuse virgolette, che vanno fatalmente in contrasto con le prime, perché sono nella direzione del muro contro muro. Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni, diceva un vecchio aforisma di Oscar Wilde. Vale certamente la pena di riprovarci, soprattutto alla vigilia della sfida diretta. Qualcuno riuscirà a tacere su quel temino? Franco Arturi. 800 24 00 24, invece vi faccio sentire che vanno anche in questa direzione, su questo argomento, e mi fa molto piacere, alcune dichiarazioni di oggi, di vigilia, di conferenza stampa, poi magari così abbiamo modo di parlarne insieme. Vi ricordo 800 24 00 24, di, tanto per cominciare, Benitez, allenatore dell'Inter. Penso che dobbiamo abbassare il tono, la tribuna, e mantenere una buona intensità in campo, ma sempre con rispetto per gli altri. Per me è molto importante, io arrivo dall'Inghilterra che sempre si può andare in campo senza problema e tutti i tifosi rispettano gli altri. Così qua penso che sarà importante fare lo stesso. I nostri tifosi sono sempre tifosi che vanno con la squadra, dietro la squadra, ma sono sicuro che questa partita è importante e tutto il mondo la guarda. Sarà un'opportunità di mostrare al mondo che si può giocare a calcio, si può avere questa rivalità alla stessa volta rispetto per l'altro. E bravo Benitez, anche nel sottolineare che qualche volta la maturità dei tifosi, ma per fortuna anche storicamente, e so quello che dico, la maturità dei tifosi si è dimostrata superiore a quella degli addetti ai lavori. Benitez ha parlato però anche di Juventus, ha parlato di questa partita, ha parlato anche non solo di cornice ma anche di quadro sulla Juventus. È chiaro che questo mese si è parlato tanto nel giornale, ho visto tante cose, ma io ho molto rispetto per l'allenatore della Juventus che sta facendo un grande lavoro. Del Neri è l'allenatore ora, io sono orgoglioso di essere allenatore dell'Inter, sono molto contento, e così per me questo è finito e parliamo del futuro, parliamo di calcio e che cosa si può vedere in campo. Anche sulla partita che ci aspetta, che vedremo di nuovo, un terzo Benitez 3, capitolo 3. La Juve è una squadra forte, ha cambiato tante cose quest'anno, questo sempre penso che è positivo per loro perché hanno un po' di fame di vincere e sarà più difficile per noi, ma noi abbiamo fiducia nella nostra squadra, noi possiamo vincere contro qualsiasi squadra se lo facciamo bene, no? È chiaro che la differenza non sarà una partita questa domenica o la due settimane dopo, no? Sarà la squadra più forte avrà 6-7 mesi per farlo bene e questa sarà la differenza, no? Per me. Poi sentiamo anche del Neri, naturalmente. Intanto stavo leggendo qualche messaggio, 349-238-6666. Perché non parlate, vero? Me ne scuso, perché non parlate della vittoria dell'italiana al mondiale di ciclismo di oggi, Giorgia Bronzini, che ha battuto Vos Johansson, ma tutta la mattina in realtà che lo diciamo giustamente nei giornali radio. Un primo titolo mondiale nel ciclismo è arrivato all'Italia domani, però siamo tutti lì ad aspettare, aspettare alla finestra, magari quello più importante. Mario, provincia di Milano, buonasera. Buonasera Carlo, è sempre un piacere. Io volevo intervenire appunto su quello che ha scritto Franco Arturi. Io sì. Sono milanista, quindi parlo da esterno. Stare zitti sì, abbassare i toni sì, assolutamente. Solo che ultimamente sono andati di moda dei dirigenti, dei tecnici che stare zitti assolutamente no, che attaccavano, che polemizzavano, che mettevano il sale, tutto era bello perché mettevano il sale, tipo Peterson, Bianchini, che litigavano fra di loro. Sì. E questi qua alla fine sono i risultati, poi alla fine non ci lamentiamo. Mario, farei dei distinguo però, perché un conto è metterci il sale, e sul sale io condivido, perché troppo spesso il prima e il dopo le partite sono veramente piatti insipidi che non sanno di nulla. Un conto è metterci il sale, un conto è dire, oggi leggevo qualche dichiarazione del recente passato. Allora Massimo Moratti, è meglio avere una squadra multietnica che comprare le partite. John Elkann risposta, non sanno perdere e non hanno imparato a vincere. Paolillo in settimana, non restituiamo lo scudetto 2006, piuttosto la Juve dovrebbe ridarcene degli altri. Moratti risposta, la Juve e FGC sembrano avere una linea comune, e via così tra sponda nerazzurra, sponda juventina. Un conto è metterci il sale, un conto è buttare in maniera un po' troppo bieca benzina su questo fuocaccio, secondo me. Quindi non bisogna mettere tutti insieme Bianchini, Peterson, Mourinho, le punzecchiature su temi che possono essere anche agonistici, e quello non sa parlare inglese, questi, e io sono più forte, io ho vinto di più, eccetera eccetera eccetera. Un conto sono queste cose, un altro è continuare a insistere su quel temino, come lo chiama Franco Arturi, che è benzina sul fuoco di un tifo che si è dimostrato nel recente passato, e voglio ripeterlo, più maturo di certi interpreti, di certi attori protagonisti, ok? Questo è il mio pensiero. Però adesso è il momento di piazzare una Z sul sedere, perché così si faceva nel telefilm, no? Ve lo ricordate bene, sul personaggio della settimana. Andrea Zorzi, buonasera. Ciao, ben ritrovato. Forse era nella pancia del sergente Garcia la Z, no, sul sedere. Si chinava. Zac. Vuoi dire che non sono esperto del mio personaggio? Vabbè. Senti, personaggio... la piazzo? Dimmi. La piazziamo distante, anche perché io sto seguendo i mondiali di pallavolo. Naturale. E mi permetto di restare focalizzato su questo. Allora, JP San, che già suona un po' da giapponese. Sì. JP sta per Jean Patrice, sì, ed è un giocatore camerunense, cosiddetto San, perché in realtà gioca in Giappone. Sì. Tu sai che San è il suo ufficio con cui si dà il rispetto e la confidenza a quei giocatori. Allora, infatti simbolo... tu eri Zorro San per il giapponese. Bravo, esatto. Allora, JP Sun è il simbolo però di una squadra del Camerun che sta giocando in questo momento la partita contro la Repubblica Ceca, accompagnata da un buon gruppo di tifosi e gli immancabili due sciamani che si sa mai servisse. Stamattina ho intervistato JP Sun, mi ha detto: ma sai, noi siamo un po' cattolici, un po' animisti, che crede nel sole, che crede nell'acqua e ci attacchiamo un po' a tutto, quindi uno sciamano non guasta, sciamano coloratissimo. Hanno fatto un mondiale meraviglioso, al di là di ogni pirosa aspettativa. Considera che loro sono adesso in questo momento quasi la squadra più forte africana, sì. Anche se ho scoperto sempre stamattina che l'Africa è divisa in due, cioè? C'è il Nord Africa, quello del Maghreb, addirittura Tunisia e Egitto, che sono quelle più forti, non vogliono giocare con il Camerun, perché hanno paura di perdere. E c'è il derby africano. Esatto. E loro si trovano in difficoltà a fare amichevoli di alto livello. Senti Andrea, cosa c'entra Eto'o con la nazionale del Camerun? Ovviamente, ho detto una stupidaggine, no? Cosa c'entra Eto'o con la nazionale del Camerun? Beh, con il calcio lo sappiamo. Cosa c'entra Eto'o con la nazionale di pallavolo del Camerun? Esatto, c'entra perché ogni volta che loro riescono a fare un giro in Europa o in Italia per fare un po' di amichevoli e quindi crescere tecnicamente, Eto'o è sempre molto vicino a questa squadra. Quindi ieri, a quanto pare, aveva chiesto permesso di venire a vedere la partita contro gli Stati Uniti, che hanno quasi rischiato di vincere. Poi, in virtù degli impegni dell'Inter, non ha avuto questo permesso, anche perché è ancora un po' distante. Però, insomma, c'è questa, devo dire, abitudine molto africana di collegare anche campioni di sport diversi, che occupano spazi diversi, però, insomma, che sono molto vicini. E quindi Eto'o più volte si è interessato ad trovarli, e questa è un po' la realtà. Poi, tieni conto che c'è un altro aspetto economico. Lì l'unico finanziamento per gli sport minori è quello governativo, che se va bene, pagano il viaggio, però per il resto non c'è una lira. Qualche volta pare che i grandi campioni, come ha fatto UEA, ti ricordi, per la Liberia, certo, e Toro sta facendo per il Camerun, ogni tanto intervenga, cercando di aiutare questa realtà che stenta un po' a decollare. Andrea, c'è dietro a questo mondiale, sotto questo mondiale, c'è il fuoco di un'altra polemica, no? Che stasera, che è quella relativa all'aspetto regolamentare, Velasco, se volete vi leggo, tu le saprai bene, le dichiarazioni di Julio Velasco sulla formula di questo mondiale. Le dichiarazioni sono queste: questa formula crea sospetti alimentando la tentazione di fare calcoli. Va bene usare un occhio di riguardo per il paese organizzatore che si sobbarca costi e oneri di un carrozzone da 24 nazionali, ma tutto c'è un limite, questa volta si è esagerato. È un mondiale troppo sbilanciato, con tutte le più forti da una parte e dall'altra l'Italia, l'unica che ha davvero sempre tutto l'interesse a vincere. Chi vuole vincere, chi non ha poi tanto interesse a vincere, una formula che convince pochi e poco. Dunque è un po' cervellotica, poi dietro c'è il peccato originale di essere pensata per salvaguardare anche gli investimenti economici che una nazione ospitante deve fare. È vero però, come dice Velasco, io lo condivido, che c'è una misura per tutto, cioè dare un minimo vantaggio mi pare sia non sportivamente corretto, ma sia comunque legittimo considerando tutto, anche perché poi alla fine la squadra più forte vince. Effettivamente una formula ha fatto sì che in questi giorni, stasera sono un paio di esempi, adesso Velasco sta giocando contro l'Egitto, gli converrebbe perdere 3-0 con punteggio vicino e così arrivano secondi. A un'ora qui giocano Bulgaria e Brasile ed entrambi proveranno a perdere, il che sarà interessante da vedere, però sportivamente parlando non è certamente un bel gesto. Però in questo senso, tra due giorni si gioca a vincere. Sì, si gioca a vincere, quindi lì poi dopo alla fine togliamo tutti questi dubbi, però effettivamente è un po' cervellotica questa cosa. Sì, però già questa storia del giocare a perdere, Andrea, mi insegni che non fa che dar ragione a Velasco e ai detrattori, a chi dice: ah, però non sono i soli biscotti nordici, no? Su cui abbiamo fatto un sacco di can-can, anche in altri sport. Senza tirar fuori Lazio, Inter, eccetera, eccetera, però anche in altri sport si gioca per un fine diverso da quello della vittoria, il che è curioso, è una contraddizione in termini, come tu mi hai sempre insegnato. Sì, per la verità il discorso è: siccome che la vittoria è il tentativo di arrivare più avanti possibile, in alcuni casi, proprio per la questione di spostamenti e di accoppiamenti, vale la pena arrivare secondi, il che significa non è che giochi per perdere per qualche ragione, giochi perché è conveniente perdere, questo è il paradosso della formula, ed effettivamente non è per nulla sportivo, però è un po' il frutto della commistione tra spirito sportivo e interessi economici. Sicuro. Pensa molto banalmente alle wild card che vengono concesse in tutti gli sport agli atleti o alle squadre di casa. La wild card significa che tu dai una strada preferenziale a qualcuno perché può portare interesse nella nazione, che è legittimo, però sportivamente parlando è già una regola che non ha molto senso. Certo. Andrea, per chiudere, l'Italia, che fino adesso è l'unica a non aver mai perso, ieri 3-1 alla Germania, come la vedi tu? Guarda, ieri secondo me c'è stato il vero inizio del campionato, nel senso che a Milano hanno rotto la paura, la preoccupazione, hanno iniziato a giocare. Ieri hanno fatto partita con una squadra, la Germania, che è una squadra forte, che è una squadra pericolosa, hanno faticato moltissimo, hanno vinto con le panchine, e questo mi sembra il modo migliore per iniziare per davvero ad avvicinarsi a quelle che sono le partite importanti che arriveranno tra un paio di giorni. Quindi complimenti all'Italia, che è cresciuta moltissimo rispetto alle prestazioni degli anni scorsi, non ha ancora incontrato le grandi squadre, però questo è il percorso, e mi auguro che tra qualche giorno, quando arriveranno a Roma, quel girone a tre, da cui ne uscirà una sola, e lì siamo di fronte al primo vero ostacolo in cui o vai avanti oppure ti fermi. Grazie Andrea. Ciao a tutti, buona giornata. Buon mondiale ad Andrea Zorzi. Tornerei agli ascoltatori con grande piacere, 800 24 00 24. Rispondo subito, caro Valerio da Lecce, che mi chiede: si decida, le piacciono le persone come Benitez o i palloni gonfiati come Mourinho? Mi piacciono i personaggi come Mourinho. Poi questo non vuol dire che non mi piace Rafa Benitez, che è un bravissimo allenatore secondo me, non è un gran personaggio, non dice normalmente cose molto interessanti come la stragrande maggioranza dei suoi colleghi, però oggi ha fatto un discorso molto, molto chiaro, e sfido chiunque a non condividerlo, no? Quello che ha detto, che avete sentito prima, oggi Benitez in conferenza stampa, quindi è un discorso ampiamente condivisibile. Detto questo, la maggior parte delle cose che dice, insomma, passano come l'acqua sul marmo, mi pare, quando si parla di calcio, quando si parla di aspetti più legati al gioco, certamente non un grande creativo, diciamo così, della comunicazione. Enzo Macerata, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo dirle, è giusto che si parli di abbassare i toni, per carità, però qua io da tifoso juventino da 40 anni accetto abbassare i toni, ma non accetto determinate cose. Nel 2006 ho visto un processo sulla Juve fatto in 15 giorni e adesso sento il presidente della Juve che ha detto una cosa semplicissima: noi abbiamo visto che sono delle telefonate, dopo 4 anni, quando il PM diceva piace o non piace, non ci sono telefonate sull'Inter. Adesso è giusto che si verificano queste cose. A lei piacerebbe vedere il Narducci che va con Moratti e con gli altri e ride, il colonnello Auricchio che fa l'indagine sulla Gazzetta dello Sport? Io come italiano, non come juventino, mi sento preso in giro. Mi sembra che ci sia un processo, no? Mi sembra che sia proprio ripreso in questi giorni, mi sembra che ci siano richieste di acquisizioni, di nuove telefonate, mi sembra anche che sono passati più di 4 anni e francamente sono discorsi che abbiamo sentito mille volte. Mi sembra che ci siano dei procedimenti in corso e quindi dei magistrati che decideranno, che hanno riaperto tutto il discorso, tutti i fascicoli, che hanno chiesto nuove acquisizioni. Non mi sembra ci fosse bisogno di sottolinearlo ulteriormente, né da una parte né dall'altra, questo, semplicemente questo. Poi andremo a vedere cosa decideranno i magistrati e ne rispetteremo le valutazioni e le sentenze, come sempre facciamo. 800 24 00 24 è il numero verde, facendo poi sempre su questo discorso anche gli opportuni distinguo, no? Perché, come è stato detto mille volte, c'è anche un peso nel valutare certe telefonate, certe documentazioni, e altre che magari hanno un peso inferiore. Detto questo, la mia posizione non cambia. Io sono sempre rimasto convinto del fatto che fosse inammissibile che ci fosse un contatto, sempre per usare termini giuridici, tra la parte in causa e il giudice, perché nel processo succede, se c'è un contatto tra l'avvocato di parte e il giudice su fatti della causa, il processo è nullo, e quindi i campionati in quel caso sono stati nulli. Non vorrei però tediarvi tutto il pomeriggio con questi argomenti, non so cosa ne pensano gli ascoltatori. Ci fermiamo un attimo. Figurarsi se non era colpa della stampa, come scrive qualche ascoltatore, Fornele in particolare nel dettaglio. Per voi c'è solo il calcio, passa davanti a tutto, anche a un campionato di mondiale di volley, ma ne abbiamo appena parlato. Come va la Celtic di rugby? La Celtic di rugby ha vinto la Benetton ieri e oggi gioca Viadana stasera alle 7. Tanto, sempre per la cronaca, vi do i risultati di B, che sono cronaca recentissime invece, partite chiuse da non molto. Pescara che ha vinto 2-1 sul campo dell'Albino Leffe, l'Empoli in trasferta, anche in questo caso 3-2 sul Cittadella, Grosseto batte Frosinone 2-0, Piacenza Padova 2-2, Regina batte Vicenza 3-2, l'Atalanta che vince a Sassuolo 2-0, Siena batte Modena 2-0, Torino batte Portogruaro 2-1, Triestina batte Crotone 3-0, lunedì giocano Varese e Novara, Siena 17, Novara Empoli 13, Atalanta 12, Regina 11, Padova 10, via via tutte le altre. Vi voglio far sentire invece, prima Benitez e adesso Gigi Del Nero, allenatore della Juventus in questa vigilia di Derby d'Italia. Grande attenzione agli avversari, grande aggressività calcistica, grande intensità, può essere un fattore importante in queste partite. E quindi direi che la Juve ha queste armi e può proporre anche probabilmente anche una tecnica superiore, no? Ma non all'Inter, tecnica superiore alle squadre che io proiettavo per affrontare, ho più, con più esperienze, insomma, no? Quindi direi che la prima base di tutto è grande intensità di gioco e grande attenzione agli avversari. Del Neri non firma per un pareggio, anche detto giustamente, peraltro, cos'altro dovete, cosa volete che dica. Massimo Callegari, buonasera. Ciao, buonasera. Massimo Callegari, che domani sera parlerà con Gigi Del Neri dagli studi di Mediaset Premium dopo la partitissima. Stefano da Brindisi, buonasera. Pronto? Pronto, dica. Sì, buonasera. So che magari è un tasto dolente per lei riparlare di Calciopoli. Sono solo 4 anni e mezzo che ne parlo. No, assolutamente, però è giusto. Io seguo sempre la vostra trasmissione, vi faccio i complimenti, ma certe volte andate fuori riga. Sì. Non sono d'accordo col suo disaccordo con le parole del signor Andrea Agnelli, per un semplice fatto. Cioè, o meglio, lei era in accordo col signor Arturi, con l'editoriale che ha parificato le parole muro contro muro del signor Moratti da un lato e del signor Agnelli dall'altro. Io non sono d'accordo, perché è vergognoso che comunque le parole del signor Agnelli vengano parificate alle continue da anni bombe a mano che quell'incosciente del signor Moratti lancia sempre, non solo in occasione di big match come Inter-Juve. È una persona comunque, cioè quello che ha detto il signor Agnelli, secondo me bisogna avere la coscienza di essere vincenti più che saper, cioè di saper vincere, quello che non tanto tempo fa il signor Khan aveva rilanciato. Quindi è quello che non è stato mai ammesso da molti organi di informazione, parliamo della Gazzetta dello Sport in primis, facendo nome e cognomi, è quello di non aver mai ammesso che la Juve ha vinto sul campo, e lo sappiamo tutti, basti vedere la finale del 2006, quanti giocatori, insomma, lo sappiamo tutti. Sì, poi che la Juventus fosse una squadra fortissima, sì, però c'è un problema, quanto lei dice, che lei parla guardando il mondo in bianco-nero, invece... Insomma, si prova a guardare da tutte e due le parti, quindi se da una parte è incoscienza e dall'altra è saggezza, io non ci sto, perché il continuare a rimbalzarsi accuse, a continuare a tirarsi cose, a tirarsi detriti, a tirarsi rottami da una parte all'altra del muro, secondo me è grosso modo incoscienza da entrambe le parti, o comunque vale da entrambe le parti l'invito di Franco Arturi, ma stare zitti no, ma stare zitti no, secondo me stare zitti sì. A stare zitti da tutte e due le parti, non è che quello mi ha detto una cosa, io allora gli ribatto e poi quello ribatte a me e poi ricominciamo lo scudetto degli onesti da una parte e quegli scudetti li abbiamo metti sul campo dall'altra, eccetera eccetera, se no andiamo avanti all'infinito. E non è da una parte saggezza e dall'altra incoscienza, a seconda di degli occhiali che si indossano, se erano azzurri o bianconeri. Secondo me stare zitti sì, soprattutto in momenti come questi, in settimane come questo. Però torno a ripetere, il recente passato ha insegnato come la maturità dei tifosi sia stata superiore rispetto a quella dei protagonisti, almeno questo è il mio punto di vista, non so se anche quello di Massimo Callegari, poi parliamo anche con Giuseppe. Vabbè, in grandissima parte sì, credo che ci sia, al di là di quello che i tifosi percepiscono, perché tutti i messaggi vengono esposti in maniera molto ponderata e un po' col cuore, molto anche con la testa e col bilancino sulle parole, la volontà ci sia da parte dei dirigenti di entrambe le parti, in questo periodo di più della Juve, che vince meno rispetto all'Inter e si comporta un po' come si comportava l'Inter quando non vinceva anni fa, ci sia la volontà di ingraziarsi i tifosi e di tenerseli anche buoni finché non si vincerà sul campo. Bravo Massimo, bravo. Quindi dice una manovra anche un po' furbetta questa. Sì, sicuramente. Parlando invece di pallone, della settimana che abbiamo appena vissuto, che hai anche raccontato perché eri a Valencia per la vittoria del Manchester United, sì. Si è parlato molto ed è storia anche recentissima, tra poco vedremo il Milan, cioè tra poco alle 20.45 sarà il Milan con il Parma, Milan Ibra dipendente. Quello che dico io è facile sviluppare la dipendenza per Ibrahimovic, in fondo è un giocatore che esige lui stesso una forma di dipendenza delle sue squadre. Sì, no, infatti questo è vero, non credo che ci sia neanche niente di male da ammetterlo, nel senso che magari all'allenatore dà così un po' fastidio dovrà ammettere di essere molto legato alle prestazioni di un giocatore, però è anche vero quello che ha detto Allegri, che alla fine la squadra gioca anche in funzione di quel giocatore, e quindi è abbastanza normale che sia così, però quello che dice Allegri è vero, e comunque Ibrahimovic, quello che ha fatto nelle sue squadre, al di là dell'Ajax, con l'Inter e con la Juventus, lo ha fatto anche perché aveva dei giocatori che poi si sono visti individualmente o con altri compagni poi d'attacco che sono seguiti Ibrahimovic, si è visto che erano giocatori comunque di qualità. Serve anche una squadra solida ed equilibrata comunque per gestire un giocatore di quel tipo lì, che è vero sta lottando molto, sta giocando molto per essere determinante, però non mi sembra che abbia cambiato modo di giocare rispetto al passato, soprattutto quando la palla ce l'hanno gli avversari. Non è quello che gli si chiede, basta non raccontare che adesso lo fa, ecco, perché non l'ha mai fatto e non credo che lo farà mai di più. Andiamo un attimo per il traffico. Massimo, tu stai lì, poi vorrei che mi parlassi di un altro giocatore che tra l'altro è in campo da primo minuto in questo momento con la maglia del Manchester City, del Manchester United, scusate, che hai visto in settimana, ed è Federico Macheda, che pare tornerà in Italia a gennaio per vestire la maglia della Lazio, così dicono tutti. Traffico. Sempre con noi Massimo Calegari, io saluto anche un altro campionissimo del ciclismo come Claudio Chiappucci. Ciao Claudio. Ciao, ciao a tutti voi. Grazie, prima volevo farti battibeccare con Beppe Saronni interista, da juventino a interista. Invece tra un po' ti lascio il palcoscenico sulla Juventus. Come la vedi la partita di domani? Prima, parlando con Beppe, dicevo... Sembra la prima montagna di un Giro d'Italia, no? Quante volte si dice sulla prima salita del Giro d'Italia non si capisce chi può vincere il Giro ma chi lo può perdere, l'avrei detto anche tu mille volte. Beh, secondo me è un po' presto, perché siamo solo ancora agli inizi del campionato, quindi è troppo presto per dire questo. Secondo me potrebbe essere la prima volata del Giro d'Italia, dove vedi chi è che è il velocista, quello più forte, no? Noi si parla sempre di questo Inter che era numero uno, arriva da queste annate che insomma è in grande spolvero, ma io sono juventino, quindi io credo nella mia fede, credo nella mia squadra, credo nel rinnovamento anche che c'è stato, perché è un grande rinnovamento che ha fatto la Juventus. Sì. Ci vuole un po' di amalgama in questa squadra, perché ci vuole tempo, insomma, trovare l'affiatamento, ognuno nel suo ruolo, di questi personaggi nuovi della Juventus che secondo me possono fare molto bene nel futuro. Io credo che la Juve Mari potrebbe anche fare il colpaccio domani. Potrebbe anche fare il colpaccio. Sai sì, che anche secondo me la Juventus potrebbe fare il colpaccio. Volevo chiudere però con Massimo Callegari, che tanto domani sera ne parlerà molto. Invece su Macheda, Massimo, l'hai visto in settimana, entra a Valencia, tocca un pallone, gol, assist, rete. Torna in Italia, alla Lazio, in prestito? Non so, sicuramente so che a lui piacerebbe molto vestire la maglia della Lazio un giorno, non so se adesso, perché è cresciuto nel mito di Paolo Di Canio. Dal mio punto di vista, per come ne ha parlato Ferguson, per come lui entra, non era la prima volta che entrava ed era decisivo, io rimarrei al Manchester dopo l'addio di Ronaldo, l'addio di Tevez. Adesso c'è un altro giovane come il messicano Hernandez, con Rooney c'è sempre da imparare, con Berbatov anche, io rimarrei lì almeno fino a giugno, poi dopo si vedrà, anche perché la Lazio davanti, insomma, con Zarate, con Floccari, con Rocchi, sì, discretamente coperta, e fare la riserva o essere il primo cambio al Manchester è meglio che essere la Lazio. Sono d'accordo con te, Massimo, rimanga no, lì. È meglio Roma di Manchester, quello non c'è dubbio, però come città, però insomma ha tempo per godersela. Ha tempo per godersela, grazie Massimo, a presto. Grazie a voi, buona domenica. Senti Diablo, invece sei dell'idea che si sia parlato troppo prima di questo Inter-Juventus, cioè che abbiano parlato troppo? Io sì. Beh, è una sfida di sempre che fa parlare quella di Juventus con l'Inter, no? Quindi è chiaro che se ne parla, perché in ogni caso anche l'Inter ha cambiato allenatore, quindi l'allenatore dà... Però questi continui ortaggi che volano da una parte all'altra della barricata, tra dirigenza juventina e dirigenza interista, pomodori da una parte e pomodori dall'altra, insomma io sarei un po' stufo. Questo purtroppo succederà sempre. C'è una rivalità troppo grossa tra Inter e Juve, quindi non è che ci possiamo aspettare i fiori da un momento all'altro. Ma è giusto così, anche perché lo sport è fatto di rivalità. L'importante è che siano rivalità buone. Sì. E questo non sempre è così, però io credo che è troppo sentita una sfida del genere, anche se In questo momento sulla carta è chiaro che l'Inter ha qualcosa in più, certo. Però io credo che la Juventus abbia stimoli, abbia morale e non ha nulla da perdere se fa il colpaccio rispetto, certo, all'Inter, che chiaramente è quella squadra più grande spolvera. Chiudendo sul ciclismo, con quale spirito vedrai la corsa di domani? Beh, il mondiale è sempre la corsa di un giorno e quindi può sempre succedere di tutto. Vedendo quello che è successo fino ad oggi, probabilmente domani potremmo anche rimpiangere di non avere un velocista o diciamo un discreto velocista che tiene anche in salita in una in linea come è il mondiale, soprattutto quello di quest'anno. Tanti sono andati in volata, le donne sono andate in volata, sicuramente credo che anche i professionisti potrebbero rimanere volati. A Pozzato non ci credi? Ma Pozzato è un punto di domanda, secondo me, perché ne ha parlato tanto, è molto convinto, ma è poi la corsa che conta, quindi certo. Adesso deve essere lui che deve far credere o ricredere chi pensa che sia troppo abituato bene da questo ciclismo e tante volte non riesca a fare il grosso risultato, perché un mondiale come quest'anno potrebbe essere il suo mondiale, però bisogna vedere come ci arriva, perché ultimamente non ho sentito, non ho visto fare grossi numeri. Diciamo di tutti gli italiani credo che sia quello più adeguato questo tipo di percorso, perché è anche velocino e anche si può inserire nelle fughe, quindi sì. Diciamo che potrebbe essere la punta unica, direi, di questo mondiale, però ritorno a dire, io probabilmente col senno di poi avrei portato anche un velocista perdi un uomo, ma al limite hai la punta di una volata. Sì, sicuro. Grazie Claudio. Un abbraccio. Grazie a voi. Grazie Claudio Chiappucci. El Diablo, Riccardo da provincia di Brindisi, poi abbiamo un paio di minuti per farci raccontare da Giovanni Capuano le formazioni del Milan che gioca stasera, ma soprattutto di Inter Juventus di domani. Riccardo. Sì, salve. Dica. Volevo intervenire, visto che pochi minuti fa è intervenuto un altro, adesso non ricordo il nome, un altro mio conterroneo, per dire, fare una battuta, credo che fosse di Brindisi, dal lato che vedeva le cose di Macerata, forse dal lato juventino, diciamo così. Lei lo vede dal lato interista e dunque? Dal lato interista io forse sono un po', come dire, non proprio in sintonia con chi come me tifa Inter e tifa Inter da sempre, ovviamente. Sì. Perché intervenendo così sulla diatriba di cui si stava parlando, delle dichiarazioni, insomma, di quello che sta accadendo, dunque? Credo che sia assolutamente, ovviamente, normale che questa diatriba ci sia, perché c'è sempre stata e non possiamo pretendere che non, diciamo così, che non ci sia, no. Che termini proprio in questi anni in cui c'è stato quello che c'è stato con Calciopoli, eccetera. Però credo che tutto sommato le dichiarazioni fatte in quell'occasione, che poi tutto è partito così, che è ripartito da quelle famose dichiarazioni di Moratti che ma tutto è ripartito, vede Riccardo, è un continuo rincorrersi sono continue ripartenze, no? Allora comincia uno come i bambini a scuola, comincia uno e poi quell'altro gli risponde, poi quest'altro risponde ancora e andiamo avanti così, ma sappiamo che è così. L'unica cosa, torno a ripetere, stare zitti, no, riprendendo il titolo di Franco Arturi. Giovanni Capuano, ce la fa a dirmi tutto in un minuto? Ti dico tutto in un minuto. Allora, per Inter-Juventus, Benitez ha recuperato Lucio e Milito, anche se in realtà per l'argentino si decide all'ultimo. Non sono stati convocati Samuel e Pander, se Milito non ce la fa. Gioca Coutinho, mentre gioca Biabiani nel 4-2-3-1. Nella Juventus, convocato Amauri, che a questo punto dovrebbe giocare in panchina Del Piero, Aquilani favorito su Felipe Melo. Il partner d'attacco di Amauri dovrebbe essere Iaquinta. In difesa torna De Ceglie. Per quanto riguarda Parma-Milan di questa sera, gioca Ibrahimovic, Pato si siede in panchina, dovrebbe entrare nel corso della partita. Boateng sembra aver vinto il ballottaggio con Seedorf nei tre di centrocampo insieme a Pirlo e Gattuso. Nel Parma gioca Crespo, gioca Candreva, gioca Angelo, va invece in panchina Bojinov, che sin qui era stato titolare. Per quanto riguarda invece l'altro big match di domani pomeriggio, che è Napoli-Roma, nella Roma Ranieri non ha ancora sciolto il dubbio legato alla presenza di Totti, ha detto che è il miglior giocatore italiano, addirittura contro il Cluj è stato il terzo per chilometri percorsi dopo De Rossi e Castellini, quindi non c'è un problema legato alle sue condizioni fisiche, e in realtà non ha annunciato la sua presenza dal primo minuto, anche se dovrebbe aver vinto il ballottaggio. passaggio con Vucinic. Perfetto, grazie Giovanni Capuano. Noi chiudiamo in orario perché sennò ci tagliano il microfono. Grazie Giovanni Capuano, ci sentiamo domani sera da San Siro, tanto per cominciare. Con voi invece ci sentiamo domani pomeriggio dalle 5 alle 7. Vi aspetto, Giorgio Drucchi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Buona serata a tutti. Tempo di sport.